L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati per una nuova puntata dell'altro pianeta. Siamo ormai quasi a fine agosto e capita a tutti in vacanza o comunque d'estate di progettare qualche cambiamento, magari di riflettere su questioni che in tempi normali, quelli di casa, lavoro o poco svago, non avevamo mai affrontato. E allora è il momento giusto per ascoltare questa conversazione tra Serge Latouche, filosofo ed economista francese, padre del concetto di decrescita, e i giornalisti che hanno partecipato all'edizione 2015 di Borgo Futuro. Cos'è Borgo Futuro? È un consolidato ormai festival della sostenibilità ambientale, economica, sociale, che si tiene a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata. Il paese è un paese ad alta vocazione ambientale, c'è la raccolta differenziata, ma non solo, ormai c'è la raccolta differenziata oltre l'80%, c'è un impianto fotovoltaico che produce più della metà del fabbisogno di energia elettrica delle utenze comunali, c'è la scuola comunale ad alta efficienza energetica col solare termico che produce acqua calda per la palestra e per l'asilo nido, ci sono molti spazi recuperati come l'anfiteatro o spazi recuperabili per ad esempio i co-worker, le giovani imprese e gli artisti che abbiano desiderio di trovare un luogo adatto per svolgere la propria attività. Insomma, ci sono in paese tante spie che indicano questa vocazione per la sostenibilità del paese, e nei giorni del festival ovviamente ci sono anche tanti ospiti interessanti come appunto Serge Latouche. Questa che ascolteremo è parte della lunga conversazione che ha avuto con i giornalisti, dicevamo, è un colloquio molto interessante, Latouche non è sempre condivisibile, almeno per quel che mi riguarda, ma comunque esprime un punto di vista alternativo che va senz'altro conosciuto. Si parla molto ultimamente, anche quando si parla di evoluzione della società, evoluzione legata all'innovazione tecnologica. Lei che legame pensa ci sia tra l'innovazione tecnologica e l'evoluzione della società? La tecnologia è solo uno strumento per aiutare a risolvere dei problemi, ma non è un problema se i nostri problemi non sono dei problemi tecnici, sono problemi sociali. E i problemi sociali, nessuna tecnologia può risolvere i problemi sociali, che sono i problemi dei rapporti dell'uomo con se stesso. Allora è una illusione di pensare a risolvere i problemi del mondo con la tecnologia, invece la tecnologia, soprattutto questa tecnologia è portata avanti, naturalmente coloro che l'inventano sono degli scienziati, qualche volta molto, molto simpatico, molto geniale, ma è finanziato da chi finanzia la tecnologia? Sono le imprese transnazionali, e perché lo fanno? Lo fanno per utilizzarla, per fare profitti, per fare soldi. Allora a questo punto sicuramente la tecnologia non salverà il mondo. Dobbiamo anche riappropriarsi della tecnologia come dobbiamo riappropriarsi del denaro. Ecco, lei ha detto insomma che chi finanzia la tecnologia sono poi imprese transnazionali che puntano al profitto. In quest'ottica, per esempio, l'Unione Europea sta negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, il TTIP. Come pensa che si collochi questo nelle dinamiche internazionali adesso? La risposta è già nella domanda, che si vede che questo accordo è una cosa catastrofica. La cosa strana è che tutti lo sanno, anche i responsabili dei nostri paesi hanno un po' paura, ma sembra che c'è una forza, la forza del destino, sappiamo che sarà catastrofica, che non dobbiamo farlo, e già da anni, perché c'è questa cosa, prima era venuta con alcuni anni fa con i progetti di accordo, quando si è fondato il WTO a Marrakech, c'era già tutti i problemi, era già cosa. E sapevamo bene che questa sarebbe la libera volpe nel libero pollaio, eccetera. Ma naturalmente si vede che i lobby sono molto più potenti che i nostri governi. Qual è la risposta quindi che potrebbe dare un governo adesso con i mezzi che ha? È rifiutare, avere il coraggio di dire basta. es reicht. Oggi tra l'altro volevo anche chiederle, insomma, un altro tema molto caldo su cui si è anche pronunciato il Papa e su cui probabilmente la decrescita, la teoria della decrescita può dare un contributo, è quello del clima. Un tema che ancora è poco sentito tra la popolazione comune. Strano, perché si vede che fa caldo. Non c'è bisogno di fare una teoria, perché bon, qua è già più normale, ma in questi giorni a Parigi faceva 40 gradi, una cosa personalmente che vivo a Parigi da 40 anni non avevo mai sentito un caldo così forte. Crede che a livello anche qui di negoziati in sede UNFCC succederà qualche cosa di rilevante oppure sarà un'ennesima COP di Copenaghen? Diciamo, purtroppo la seconda ipotesi è probabile, purtroppo più probabile. Bon, dobbiamo auspicare un miracolo, ma forse grazie al Papa può aiutare per fare un miracolo. Si vedrà se veramente... lui sarà santo subito, ma i miracoli oggi sono abbastanza rari. Professore, se posso io volevo chiederle invece, banalmente che cosa ne pensa dell'Expo? Cosa ne pensa appunto della decrescita dell'Expo? Beh, anche poi... la risposta alla domanda, se vedete che l'Expo è un tradimento, che un tradimento dell'idea originale, nutrire il mondo... Bon, e che era più o meno sostenuto dall'amico Carlo Petrini e poi è stato tradito perché è chiaro anche questo, si vede la potenza dei lobby, è stato tradito perché avevano bisogno di sponsor. Chi sono gli sponsor? Le imprese dell'agrobusiness che naturalmente e che distruggono la qualità del cibo, il cibo autentico. Che... agricoltura e produzione di cibo, come la decrescita come può rientrare appunto anche come può affrontare le grandi sfide della fame? Precisamente, e allora su questo non è una cosa particolare alla decrescita, perché l'ex direttore della FAO, Olivier Deschutter, l'aveva detto. Non siamo sicuri, lui sembra sicuro, io non sono un esperto, un agronomo, non sono sicuro che con l'agricoltura biologica si potrà nutrire il mondo nel 2050 se c'è ancora l'umanità e se abbiamo 12 miliardi di abitanti, ma una cosa sicurissima è che con l'agroalimentare sarà impossibile. Perché? Perché l'agroalimentare, per due ragioni principali, è petrolio, e il petrolio non ci sarà più. Quando si mangiamo un chilo di bistecca, mangiamo 6 litri di petrolio, perché dalla forca alla forchetta tutto è petrolio, con chimici, pesticidi, trattori, il sistema della distribuzione, tutto è basato sul consumo di energia, di petrolio, di prodotti fatti dal petrolio. E poi questa agricoltura industriale basata sull'uso dei concimi chimici e dei pesticidi produce a corto termine, sì, crea dei... aumenta la produttività, almeno la produttività per lavoratore, non la produttività del suolo, perché un contadino che lavora un piccolo pezzo ha una produttività più forte, ma non può per coltivare 200-500 ettari con una sola persona, sì, sicuramente solo col trattore, con i concimi chimici, solo che a lungo termine distrugge il suolo. Basta pensare che la parola pesticidi è biocidi, distrugge la vita, distrugge tutta la vita del suolo, i vermi, tutti i piccoli animali che fanno respirare il suolo, che rinnovano il terreno. E poco a poco si trasforma e le terre coltivate diventano un deserto. Malgrado il fatto che 99% dei crediti dell'agricoltura vanno alla ricerca dell'agricoltura produttivista, solo 1% per l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica fa dei progressi enormi e allora questo dagli esperti come Marc Dufy, l'agronomo Marc Dufumier in Francia, questo Olivier de Schutter là, che è esperto delle Nazioni Unite, bon, dicono che potrebbe nutrire il mondo 12 miliardi. Per chi si fosse messo in onda negli ultimi minuti, stiamo ascoltando la conversazione di Serge Latouche, padre del concetto di decrescita, con i giornalisti che lo hanno incontrato a Borgo Futuro, che è un festival della sostenibilità che si tiene a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata. Latouche è un sostenitore dell'importanza di un ritorno ragionato, graduale all'autoproduzione, passando per l'uso ragionevole delle risorse naturali, e questi elementi combinati a una riduzione dei consumi, al rallentamento delle produzioni, sono per Latouche l'unico rimedio a questa epoca di crisi. E allora sentiamo il prosieguo della conversazione. Lei poco fa ha parlato di quanto sia più dispendioso distribuire i prodotti che produrli. Allora mi domando io, in un'ottica della teoria della decrescita, il mercato eco come viene visto, come si colloca? Naturalmente si deve distinguere il progetto del commercio equo e la realtà. Purtroppo la realtà non è sempre all'altezza del progetto. La decrescita naturalmente è totalmente favorevole al progetto del commercio equo e solidarietà con i popoli del sud, e poi ritrovare il senso di un prezzo giusto, diciamo. Devo chiederle ancora una cosa. A scardinare questo, diciamo, mito della crescita illimitata è anche il modello dell'energia rinnovabile, no? Che funziona al meglio quando ha una generazione elettrica distribuita, cioè fatta di piccoli punti. Questo ovviamente viene osteggiato, insomma, preso di mira dai governi, che di solito tagliano gli incentivi alla produzione di energie rinnovabili e magari conferiscono questi incentivi a grandi impianti. Lei ritiene che il viaggio verso un'economia low carbon o zero carbon, come si suol dire, possa aiutare anche a rivedere tutto il paradigma della crescita, oppure è soltanto una parte del discorso? Ma è una parte del discorso, una parte importante. Il problema è che per l'energia il problema è che si deve cambiare totalmente la concezione dell'uso dell'energia. E sicuramente, perché il nostro modello, questo paradigma, per parlare come il Papa, è basato sul consumo di petrolio, che è un'energia fossile che non è illimitata, e che di più dovremmo non più toccare a un pozzo di petrolio, perché creiamo anche problemi come il climato, eccetera. E allora dobbiamo, il cambiamento di paradigma impone un uso dell'energia totalmente diverso. Per esempio, ora fa caldo, cosa facciamo? Diciamo, per mettere climatizzatore, eccetera. I nostri padri, nonni, non avevano climatizzatore, avevano un modo di gestire la casa per che sia fresca anche quando fa caldo. E naturalmente la prima cosa da fare è immaginare un modo di vivere, senza tornare al Medioevo, un modo di vivere con un basso consumo di energia. L'energia rinnovabile è formidabile, ma è limitata, non sarà mai come il petrolio. L'era del petrolio è finita e deve finire. E chiudiamo qui la prima parte di questa puntata dell'Altro Pianeta. Tra poco però continuiamo, lasciamo Latouche, cambiamo del tutto argomento, parliamo di sistemi di irrigazione. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Con consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio, abbiamo sentito nella prima parte una lunga conversazione con Serge Latouche, teorico della decrescita, con i giornalisti a Borgo Futura. Ora cambiamo decisamente argomento, come dicevamo, arriviamo alla irrigazione sostenibile. Che sia necessario irrigare un campo è ovvio, che sia necessario non sprecare né inquinare quando si irriga lo è altrettanto, ma che lo si faccia non è detto. Per incrementare l'efficienza e ridurre gli sprechi, il consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo ha effettuato anni di ricerche che hanno portato all'elaborazione di un sistema chiamato IrriFrame, capace di aiutare gli agricoltori a ridurre i consumi di circa il 25-30% anche. Il sistema è stato adottato, migliorato, dall'ANBI, che è l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, che lo ha poi diffuso in 44 consorzi di bonifica di 11 diverse regioni italiane su circa 15.000 aziende agricole, quindi i numeri sono importanti. Ne parliamo con Francesco Vincenzi, che è il presidente dell'ANBI. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buongiorno. Ci dica intanto sì. Qual è il così che cos'è il reframe e poi dopo magari vediamo qualche dettaglio. Grazie, innanzitutto il reframe non è nient'altro che una risposta a quelle che sono le esigenze da un lato dei cambiamenti climatici e dall'altro delle esigenze delle aziende agricole che per stare sui mercati hanno sempre bisogno e maggiormente appunto bisogno di avere un'anticipazione all'interno della propria produzione agricola per essere competitivi con il resto del mondo. Il reframe non è appunto un progetto che nasce come consorzio di bonifica che vuole anticipare i tempi, affrontare il tema da un lato della scarsità dell'acqua e dall'altro il grande tema di utilizzo razionale delle risorse come quelle del suolo e in questo caso invece quella dell'acqua, che è un tema importante ad Expo, ma è un tema che dobbiamo affrontare con grande serenità e nello stesso tempo con grande lungimiranza. Appunto questo IrriFrame è un programma che viene elaborato dai consorzi di bonifica in funzione dell'andamento climatico, quindi della pluviosità e delle temperature, della tessitura del terreno, della cultura e del momento fenologico in cui si trova la cultura, quindi nello stadio produttivo della cultura, dà un consiglio all'agricoltore per l'irrigazione, un'irrigazione che appunto mette al centro la qualità del prodotto finale, quindi la qualità organolettica, mettendo al centro l'utilizzo razionale e il risparmio della risorsa idrica. Dunque, io avevo sentito parlare da voi di questo quando era ancora insomma un'idea, immagino, comunque c'erano le prime sperimentazioni, e adesso vedo che addirittura siete arrivati a pensare a un'app, no? Quindi questa è molto cresciuto direi negli anni. Questo è molto cresciuto, è cresciuta la tecnologia, quindi anche nelle aziende agricole oggi sono tecnologicamente molto avanzate e hanno bisogno di uno strumento efficiente ed efficace e in tempo reale. Per questo abbiamo deciso di fare un'app che tutti la possono scaricare gratuitamente dal proprio telefonino e inserendo alcuni dati che vengono richiesti rispetto al posizionamento del suo terreno, dell'appezzamento, riusciamo a dare questo consiglio. Questa sfida qui di reframe nasce parecchio ormai 10 anni fa grazie all'impegno di Regione Emilia-Romagna e del nostro consorzio di bonifica Canale Emiliano-Romagnolo. Oggi è diventato un'esperienza nazionale grazie al contributo di CREA, INEA e CRA e del Ministero dell'Agricoltura, un progetto importante e un progetto che addirittura ci stanno venendo a chiedere informazioni anche a livello mondiale. Senta, ma un po' come funziona? Lo so che noi non siamo addetti ai lavori, però ci dà un'idea di... Certo, lei accende il telefonino, apre l'app, nel momento che apre l'app le viene detto buongiorno, noi con il suo nome e cognome, e le dice se ieri non hai irrigato deve irrigare tra 2 giorni con 8 mm di acqua. Questo permette all'agricoltore di programmarsi, di iniziare a chiedere al consorzio di bonifica l'acqua necessaria e né di più né di meno di quella che serve, e quindi da un lato abbiamo il miglior utilizzo della risorsa idrica e dall'altro una grande programmazione che vede appunto al centro l'utilizzo nel miglior modo possibile di una risorsa idrica che deve da un lato nonostante le carenze di questi giorni, soddisfare, e cerchiamo di farlo con grande serietà e grande lavoro, soddisfare tutte le esigenze di tutti i territori, sia di valle che di monte, quindi quelli più dotati della risorsa e quelli meno dotati della risorsa. Senta, ma come funziona normalmente? Cioè, chi non ha questo sistema, che mettiamo che sia proprio lontano, quello ha proprio in maniera più tradizionale, cioè semplicemente preleva l'acqua, non ve lo dice? No, no, l'acqua deve essere sempre prenotata tramite la telefonata al consorzio di bonifica, perché si devono fare le manovre idrauliche per garantire anche la sicurezza dei territori che stanno vicino a colui che deve prelevare l'acqua, altrimenti senza la prenotazione delle risorse non si può attingere dai canali, dai consorzi di bonifica. Sicuramente con questo prodotto, con questo programma qua, riusciamo a programmare proprio la quantità giusta di acqua che necessita in quell'appezzamento, in quell'azienda agricola. Penso che sia stata una bella innovazione, più che altro si è data una visione di futuro importante, anticipando anche quelle esigenze che oggi la collettività ha, che è quella di utilizzare al meglio appunto la risorsa dell'acqua e di utilizzarla in modo consapevole. Tutti gli agricoltori, diciamo, fanno riferimento a un consorzio di bonifica? No, tutti i territori, tutte le regioni d'Italia sono perimetrate dai consorzi di bonifica, e la risorsa idrica in tutte le regioni d'Italia viene gestita in modo collettivo dai consorzi di bonifica. Quindi molte regioni si stanno già sviluppando, si sono già attrezzate a utilizzare il reframe, altre si stanno avvicinando perché avevano anche altri sistemi efficienti anche loro all'interno della sua regione, proprio dei propri consorzi, quindi ci stiamo omologando, stiamo trasmettendoli grazie al lavoro di CREA e dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, e quindi oggi tutti i consorzi di bonifica e molti agricoltori si stanno attingendo ad aderire a questo progetto, e penso che sia una sfida importante da portare avanti in futuro. Quindi l'idea è di portare avanti un sistema unico sostanzialmente? Certo, un sistema unico, un sistema che viene stato valutato positivamente da diversi centri di ricerca, da diverse università e appunto dai nostri centri di ricerca, proprio dei consorzi di bonifica, che costantemente, annualmente cercano il miglior metodo irriguo e la miglior condizioni, mettere le culture nelle miglior condizioni produttive dal punto di vista organolettico e quantitativo. Che vantaggio c'è nell'avere un unico sistema? C'è un vantaggio che, come abbiamo detto, questo sistema prevede, anzi si è dato come obiettivo, di risparmio della risorsa idrica in agricoltura. Noi grazie a questo sistema stimiamo di poter risparmiare 500 milioni di metri cubi di acqua nel nostro paese, che corrispondono circa un 20% rispetto a quello che è l'utilizzo attuale. A proposito del nostro paese, probabilmente lei questo lo può sapere, la risorsa idrica in Italia, diciamo, come sta? Noi viviamo in un paese, come ho detto più volte, vive in un paradosso che siamo, che in inverno viviamo 6 mesi sott'acqua e d'estate viviamo 6 mesi con la siccità. Io penso che questo nostro paese deve affrontare il tema della risorsa idrica, quindi la gestione della risorsa idrica a 360 gradi, mettendo al centro del proprio sviluppo, al centro del proprio programma di opere pubbliche, i nostri 120.000 chilometri di canali, che sono una risposta positiva al territorio, non solo dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista della sicurezza idraulica. Senza toccare il tema del turismo, il tema dell'ambiente, il tema della biodiversità e dei vantaggi che ha quest'acqua scorrendo all'interno dei nostri canali. Penso che noi, il nostro paese, debba fare questa scelta, metterla all'interno delle grandi opere pubbliche del nostro paese, perché penso che le vie d'acqua siano proprio, vadano viste in quest'ottica. Ma per curiosità, questa alternanza di sott'acqua e di siccità è sempre stata una caratteristica del nostro paese, o si è acuita magari per i cambiamenti climatici? Abbiamo degli eventi estremi in questi giorni? Diverse volte sottolineato il problema che non abbiamo affrontato per tempo il tema, da un lato, dei cambiamenti climatici e del cambiamento del territorio, perché noi viviamo in un territorio giovane da un lato, ma dall'altra parte urbanizzato a livelli che non forse altri paesi non lo sono stato. Noi questo non l'abbiamo affrontato. Allora oggi bisogna avere il coraggio di non affrontare più tutti questi problemi in fase di emergenza, come sono stati affrontati fino ad adesso, e mettere in campo tutti quegli strumenti e tutte quelle operazioni in grado di far passare il concetto della prevenzione e non dell'emergenza. Lo stiamo facendo, stiamo proponendo come consorzi di bonifica all'unità di missione diversi progetti che mettono in sicurezza dal punto di vista idrogeologico il nostro territorio, e dall'altra parte lo stiamo facendo per dare delle risposte con il piano irriguo nazionale, con dei progetti cantierabili per risolvere il problema da un lato della siccità e per risolvere le esigenze di un mondo agricolo che ha sempre più sete e che ha necessità, per rimanere da un lato sui mercati e per produrre e continuare a mantenere il grande made in Italy, il grande agroalimentare nel nostro territorio, di avere questa risorsa. Come viene accolta questa vostra proposta e la state portando avanti con altri, non so, penso ai geologi o agli ingegneri che comunque possono lavorare con voi? Stiamo portandolo avanti in modo coordinato con l'unità di missione per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, con il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda il Piano Irriguo Nazionale. Io penso che questa sia la sfida del futuro, oggi è il tema che è sui tavoli di questo governo, sui tavoli delle istituzioni, penso che con grande lungimiranza dobbiamo metterci tutti in campo, metterci la faccia, fare con utilizzare le politiche del fare, che è la caratteristica dei nostri consorzi di bonifica, e mettere da una parte le logiche del passato, che ognuno doveva fare il suo pezzettino non integrato, ma dobbiamo metterci tutti insieme per risolvere il grande problema e considerare che questo grande problema, quando viene risolto, risolve anche non solo il problema della sicurezza, ma il problema dell'occupazione e il problema dello sviluppo del nostro paese. Magari riuscissimo ad affrontare. No, lei fa bene a pensarlo, ci mancherebbe, è verissimo. Magari riuscissimo a mettere insieme tutti questi tasselli per andare avanti anche con una certa rapidità, perché il tempo fugge siamo già in ritardo, se lo vuole sapere il mio pensiero. Siamo già in vita, occorre fare presto perché non abbiamo più tempo di aspettare, uno perché sono le esigenze dei cambiamenti climatici che ce lo chiedono e dall'altro perché i cittadini lo pretendono, un territorio più sicuro, salubre e bello dal punto di vista ambientale. La ringrazio molto davvero, le ho rubato tanto tempo, ma insomma abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti. Grazie mille. Grazie mille e arrivederci, a risentirci anzi. Ci sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, cioè l'ANBI. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.